to think that showing or admitting affection be less than masculine, then I don't know what to say. Put it in words, man. Yeah. Love is all that keeps me faithful. Love is all. Felt it from the very start. Oh, oh, oh, hey, hey. Love is all that keeps me faithful. Keeps me faithful. It's a gift that true love brings, that changed the way you look at things. All this time and all these years, all the smiles and all the tears, kept us in this space somehow. We're even closer now. You and I have what this whole world has been searching for. A little peace of mind, searching everywhere. Ritorno in diretta dopo il GR di Radio Popolare, che ha concluso con un'iniziativa che approvo totalmente: l'apertura di un padiglione con artisti esuli alla Biennale di Venezia dalla Palestina. Un'idea importante, difficile da realizzare, certamente, come citava Matteo, alla co-conduzione del Breakfast Club. Chi prende la responsabilità? Beh, il Breakfast Club. No, non c'è da fare né ironia né da scherzare, tutt'altro, anzi, comunque è un'iniziativa, sarebbe un'iniziativa, oltre che da approvare, più che meritoria e lodevole. Last minute, però andiamo a teatro. Ho la possibilità per adesso di due ingressi, cercherò ovviamente di portarne quattro, Agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. 1899, Freud, il padre della psicanalisi, colloca la teoria e la pratica psicoanalitica in una visione del mondo scientifica, pratica, né religiosa né mistica. Nella sua interpretazione dei sogni, come ho detto, portato nel 1899, sarà veramente un testo fondante di tutto ciò, riportando sogno, realtà, concezione, esperienza, percorsi, veramente uno scienziato fondamentale per quello in cui io credo, cioè la psicanalisi. E ovviamente, come tante e come tanti, diffido da chi dice io non ho bisogno della psicanalisi, no, ma come vado a raccontare i fatti miei, no. Ecco, chi dice tutto ciò è il primo ad aver bisogno di una terapia di psicanalisi, è il primo, ecco. Ma mica tutti la pensavano come lui, eh? No, no, assolutamente, anzi c'erano altri luminari, altri studiosi di questo ambito, già suoi contemporanei, che erano antagonisti. Uno in particolare. Questa introduzione perché intanto vi porterà a teatro per martedì 5 marzo con l'auditorium 1 maggio, siamo a Crevalcore alle ore 21, due ingressi che possono diventare 4, come ben sapete la mia insistenza può dare buoni risultati. Protagonista Stefano Massini in L'interpretazione dei sogni, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud. Le musiche sono di Enrico Fink, una produzione dal Teatro Stabile di Bolzano e in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano. Dopo queste note appunto di struttura dello spettacolo che arriva a Crevalcore, nella lettura del fondatore della psicanalisi, il sogno ha un impianto profondamente teatrale, eh sì, una vera e propria drammaturgia onirica, e da più di 10 anni è impegnato nella sua ricerca sull'interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, a cui ha dedicato anche un romanzo di successo già tradotto in più lingue. Questa volta Massini tutto ciò lo porta a teatro e riparte in prima persona, mettendo il suo estro di narratore al servizio di questo spettacolo in cui, fra la musica di Enrico Fink, prende forma un variopinto mosaico di personaggi che vanno a raccontare i propri sogni, compongono una sinfonia di immagini e di possibili interpretazioni in cui ovviamente il pubblico si ritrova. Sarà una maniera collettiva di raccontare, di interpretare, di conoscere e di vivere questo ponte tra realtà e aspetto onirico attraverso la voce e l'estro di Stefano Massini, che porterà a Crevalcore all'auditorium 1 maggio L'interpretazione dei sogni alle ore 21 martedì 5 marzo, quindi avete tempo ovviamente per organizzarvi, e a breve il quiz. Come si chiamava lo studioso scienziato di queste tematiche che insomma andava come antagonista a Sigmund Freud? Era un professore svizzero, ovviamente notissimo, anche da lui si parte con un'altra scuola per quanto riguarda la psicanalisi. C'era sempre il confronto tra Sigmund Freud e... puntini, puntini, puntini, me lo scrivete voi e andate a teatro. Le differenze tra i due, beh, un aspetto singolare, un aspetto collettivo, molto più concreto uno, quell'altro invece si affidava molto di più a un aspetto culturale, religioso, mistico, insomma le differenze ci sono e come. Ed è interessante anche andarle a snocciolare, tutti e due fenomeni ovviamente, e aspetto da voi le risposte al 333 180 9494. Tanto Andrea si tiene allenato Marco per rispondere al quiz del Voltiamo Pagina e risponde giustamente anche al quiz del Last Minute in Scena. Risposta esatta che ovviamente non dirò perché tu stesso hai detto non riesco ad andare, ho voluto partecipare così per mantenermi pronto per il quiz imminente magari con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi e il Voltiamo Pagina. Però arriva una risposta esatta ma in forma anonima. Puoi mettere il nome che così hai la possibilità dell'ingresso a teatro? Intanto grazie a te Michele, può essere Alfred Adler? No, però ringrazia, scusa per questo mio no molto deciso, ma ti mando un caloroso abbraccio, non è Alfred Adler, però ti ringrazio che hai riportato una recensione positiva per lo spettacolo L'anatra all'arancia che hai gustato la scorsa settimana. Io e la mia compagna ci siamo divertiti molto. Michele. Grazie Eugenio. No, guarda, sei vincitore perché la risposta esatta l'hai portata con nome e cognome. Carl Jung, scienziato svizzero studioso di psicanalisi, antagonista e in confronto con Freud. Intanto ha precisato anche da Via Mondo. Tuttavia mi sono totalmente perso quale sarà lo spettacolo e io te lo ripeto, in più questo weekend sono a Roma. Non ti preoccupare perché è martedì 5 marzo. Non ti preoccupare perché ti ribadisco la sinossi, è martedì 5 marzo alle ore 21 all'auditorium 1 maggio a Crevalcore, la stagione Tre Teatri per Te, Stefano Massini in L'interpretazione dei sogni, liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud, musica di Enrico Fink, nella lettura del fondatore della psicanalisi, ovviamente il sogno ha un impianto profondamente teatrale, una vera e propria drammaturgia onirica. Il protagonista Massini da più di 10 anni è impegnato nella sua ricerca a tale testo fondatore, ha dedicato un romanzo di successo, ora lo porterà in scena e sarà ovviamente in dialogo con le spettatrici e gli spettatori. Ecco, così hai tutte le informazioni del caso, ma a breve sarai contattato dopo la diretta del Breakfast Club. Aggiungo un'altra risposta esatta che arriva e quindi comprendiamo anche nella nostra playlist di vincitori, eccolo qui, l'ho raggiunto, è Michele. Michele appunto ha riportato anche lui stesso in precedenza quello che l'ha messo a teatro con L'anatra all'arancia. Scusa Michele, in questo caso ho ribadito una non vittoria, ma è Luca, perdonate, lo devo fare diretta la playlist musicale, tenere i contenuti, la regia. Il vincitore è Luca che scrive esattamente Jung. Scusami Michele, non ti volevo illudere, porta pazienza. Don't ever wanna play the head honcho dick. But if you try to push, I won't beat around the bush. Straight up, you're getting dissed on the pronto. I say life is like a puzzle, not piece yet. Might take a village elder long to see that. Don't break your ties, meet my pal compromise. And the kid you... Allora, vincitore ufficiale Eugenio. Io cerco di portare a teatro anche Luca. Sono quasi sicuro che andrai a teatro, Luca. Adesso però non voglio illudere ulteriormente. Intanto grazie per l'attenzione, per aver giocato con il brand Breakfast Club, a brevissimo con il Voltiamo Pagina, già presenti in redazione e tra poco in diretta Silvia Albertazzi, libri a colazione sui 103.1. Buon ascolto, a tra poco. Don't break your ties, meet my pal compromise, and the kid you wanna be, you can be that. Life is like a puzzle, not piece yet.